Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, buonasera. Buonasera da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua, Antonio. Questa sera abbiamo un ospite in carne ed ossa ed è il signor Valenti, che di Vittorio Veneto è un giornalista, però la presentazione la farò lui poi dopo, più avanti, più tardi, insomma, ecco. Allora, prima di tutto salutiamo il signor Valenti. Buonasera, signor Valenti. Buonasera, signor Valenti. Buonasera a voi. E benvenuto. Grazie. Grazie di aver accettato il nostro invito. È stato un piacere trovare qui, che non conosco, un posto che non conoscevo. Oggi lo conosco e voglio anche ritornare. Così mi piace. Allora, signor Valenti, prima ci ascoltiamo una canzone e poi le diamo la parola, così farà la sua bella autopresentazione. Scusa, Antonio. Naturalmente, sì, sì. Ecco. Prima diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. E ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, cioè il podcast, senza dimenticare un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Sì. Andiamo con la prima canzone, che è cantata da Fiorella Mannoia ed è intitolata Gente qua, gente là. Ho voglia di vederti, di averti qui con me, perché non passa mai la festa senza te. Eccoci di nuovo in studio col nostro signor Nino Valenti, vero? Che si chiama così? Nino Alessandro. Alessandro, bene. Allora, adesso tocca a lei fare una autopresentazione. Benissimo. Intanto vi ringrazio per questo invito, che mi dà un'opportunità davvero importante di fare qualche chiacchiere con voi e con i vostri e con i nostri ascoltatori. Certo. Allora, sono Alessandro Valenti, sono vittoriese. e la mia storia comincia con un inganno. Ah, dico subito, apro una parentesi, mi interesso di teatro e quindi chiaramente il tutto nasce probabilmente da questo inganno, perché lì, come noi tutti sappiamo, il teatro è la massima menzogna, certo, quella che più tocca la verità. Certo. Vabbè, io sono nato a Pieve di Cadore il 26 febbraio del 1946, ma mia mamma, della Vittoria, e avendo paura che fossi, eravamo appena dopo la guerra, sì, avendo paura che fossi della prima chiamata del contingente alle armi, cioè gennaio e febbraio, mi fece nascere a Vittorio Veneto il primo marzo, allora probabilmente si poteva, il primo marzo, così ero del secondo contingente di chiamata. Cosa non farebbe la mamma? E questo è l'inizio, quindi così. Mi piace il titolo che avete dato a questa trasmissione, che sono i sentieri della memoria, perché mi ritrovo in maniera particolare su questi sentieri. Come vi dicevo, vengo da Vittorio Veneto, una città che purtroppo ha perso nell'arco di 60 anni tante, se non tutte le sue occasioni, ed è rimasta purtroppo emarginata sia da un punto di vista viario sia da un punto di vista della cultura, dove negli anni 80 era il faro della provincia. Sono quelle cose che purtroppo cadono, i cicli, esatto, che saltano fuori. Ecco, Vittorio Veneto è la città dove è finita la prima guerra mondiale, l'unica guerra che noi abbiamo vinto, il 4 novembre. Esatto. Ecco, e era un'occasione grandissima per fare come fa Charleroi in Belgio, no? Che osanna la vittoria su Napoleone, che è stata proprio lì, no? E mentre noi qui a Vittorio, cioè a Vittorio, non si è mai fatto. E le mie origini sono un po', oltre che strane, così, sono poi legate un po' alla mia famiglia, che sono i Tandura. I Tandura, Alessandro Tandura, è stato il primo paracadutista al mondo in azioni di guerra nell'agosto del 1918, ha ottenuto una medaglia d'oro al valore militare, due medaglie d'argento al valore militare, una promozione da capitano maggiore sul campo. Quindi, è morto giovanissimo, nel 1937, a 41 anni. È morto, in Somalia. No, dopo vi racconto questo, perché è una cosa un po' particolare, che io ho raccontato, tra l'altro, molto per esteso, in Due centimetri più alto del re, che è il libro che ho scritto su mio nonno. Sciaboletta. E dico Due centimetri più alto del re perché mio nonno era 1,56 e il re 1,54. Ecco, allora lui si vantava di essere 2 centimetri più alto del re. Questo uno. Il figlio di mio nonno, di cui porto così fra i familiari porto il nome Nino, cioè mio zio, è stato anche lui medaglia d'oro della Resistenza. Dopo aver fatto la campagna di Russia è tornato in Italia, è entrato nella Resistenza, e il prossimo anno, giugno prossimo anno, sono 70 anni che è morto, e sto scrivendo un libro in cui lui mi racconta di aver compiuto 70 anni da morto senza che nessuno tranne i familiari lo ricordi. Mentre mio nonno è molto usannato, se lei va in internet trova di tutto. Su mio zio è sceso un velo che non si riesce a capire, chissà perché. Ecco, mia nonna è medaglia d'argento al valore militare, mia mamma ha avuto medaglia di bronzo della Resistenza. Quindi questo è un concentrato di patriottismo. Veramente. Un'altra cosa di cui vi accennavo prima della trasmissione è che sia Alessandro, sia Luigino, sia io siamo stati ufficiali del 7° Reggimento Alpini. Una cosa anche più lei unica, è stato, che rara. Ecco. Io ho fatto quasi 5 anni perché mi ero raffermato. Ah, ho capito, ha chiesto la ferma, sì. A Belluno, poi invece dopo ho avuto un incidente, mi avevano trasferito al 5° Comiliter di Padova e dovendo fare l'impiegato ho deciso di andarlo a fare un borghese. E così l'1-1-73 ho vinto un concorso di dattilografo del comune di Vittorio Veneto. Nel quale è entrato poi, vero? Sono entrato e poi ci sono rimasto nel comune di Vittorio Veneto 37 anni, uscendo, facendo i vari gradi da quello della vice segretaria e uscendo come direttore generale. Quindi una carriera quasi di tipo americano. Esatto, diciamo, all'interno ecco. della stessa azienda e questo sì. mi ha dato molta soddisfazione. Sì, sì, un caso raro ritengo. Sì, e sì, oggi addirittura quasi impensabile. Quasi impensabile. Ma io ritengo che lei fosse un bravissimo direttore generale. E come no, adesso mio figlio lavora purtroppo, perché l'Italia non dà in questo momento opportunità, lavora ormai da 5 anni circa a Bruxelles ed è un ingegnere informatico, e il suo direttore generale lo ha fatto manager di un'unità dove ci sono ingegneri esclusivamente fiamminghi, perché un italiano riesce a comunicare. Questa è la motivazione. Questa è la cosa. Ecco, però, dovrebbero capirlo questo anche naturalmente chi... Esatto, puntini. Ecco. Vi racconto un episodio così brevissimo. Sì, sì. A settembre dell'anno scorso ci siamo trovati 5 papà, no? 5 amici, tutti papà, con 9 figli in tutti, ecco. Sì, di sì. cui 8 lavorano all'estero. Ma penso. La nonna, che è mia figlia, una, cioè uno è a Bruxelles, e lavora a Bologna, però il Veneto non è riuscito a darle... Sospiriamo è una grande città, però diciamo che un po' di rammarico in queste cose c'è, Veneto, più che comprensibile, riesca a dare ai nostri giovani delle opportunità. Strano, perché il Veneto era ma anche si vede che nell'informatica non ne vuole sapere. Sì, beh, forse non solo in quello. Va bene. Così. E continuiamo pure con questo racconto. Sì, cari Jesi e Antonio, mi sento vittoriese, naturalmente, dalla punta, cioè dall'ultimo capello bianco che ho fino alla punta dei piedi. E sono orgoglioso di essere... vittoriese. Sono stato alle volte costretto ad essere fuori, periodo militare, di Vittorio Veneto, periodo di università, un periodo militare, essere fuori Vittorio Veneto, però ci sono sempre rientrato con una grande gioia. Se lei proprio vuol bene a Vittorio Veneto. Io voglio bene a Vittorio Veneto e scrivo molto su Vittorio Veneto, anche nella mia attività di giornalista, anche se non faccio cronaca, perché mi interesso di teatro, di musica, sono nelle pagine della cultura degli quotidiani, del gruppo Espresso, quotidiani locali. Quindi esatto. Tribuna, per quanto mi riguarda, certo, è mattino, certo. Soprattutto il mattino di Padova. Sì, i due sì. Parlo di Vittorio Veneto, delle eccellenze. Oggi va di moda questa parola. Lorenzo da Ponte mi viene in mente, insomma, una cosa del genere. Lei mi dà uno spunto con il caro amico professor Fabio Girardello, che è stato anche assessore alla cultura del comune di Vittorio Veneto e oggi insegna al liceo Flaminio, liceo classico Flaminio. Abbiamo scritto delle robe assieme, parecchie ne abbiamo scritte, e una riguardava proprio un confronto fra Casanova, perché lui è veneziano, sì. E da Ponte, perché io sono vittoriese, ho vinto io 2-1, ho l'impressione ho voluto vincere, e lui è rimasto un po' scioccato, allora siccome è rimasto scioccato abbiamo scritto l'elogio del semideficiente. Ecco. Quindi lei ha scritto diversi libri, io ho scritto diversi lavori, non tantissimi libri, ne avrò 7 o 8, però moltissimi moltissimi lavori teatrali, questo sì. Adesso, se abbiamo tempo, la prossima tranche, adesso ci fermiamo un attimo, la prossima tranche andremo a fondo delle cose. Ecco, appunto. Allora, la seconda canzone in programma è Per chi, ed è cantata dai James. È così, Antonio? Dai Gens, esattamente. Gens Giulia o Romano, non lo so. Non so che tipo di Gens siano. Non so, è un complesso degli anni 60. Scusa la mia ignoranza. Va bene, ci ascoltiamo. Mia, andare per il mondo senza me. Ti perderesti come stai perdendo me. Torna presto. Io di notte sono solo, se hai pensieri mi abbandono. Mi vien voglia di morire, ma perché? Io mi domando cosa valgo senza te. Per chi vivrò? Per chi il cuore batterà? She said. Torna presto, amica mia, se manchi tu, per chi vivo, oh, eccoci di nuovo in studio con il nostro Alessandro Valenti. Allora diamo la parola a lui. Allora, come vittoriese, dicevo, mi sono così cimentato nella scrittura, in cui Vittorio Veneto è sempre al centro della, non sempre, è spesso al centro della scena. Ultimamente però sono andato in scena con un lavoro che sta incontrando, questo è tutto da capire come mai, sta incontrando una chiamata fortissima. Infatti dal 10 al 15 di dicembre sarà al Teatro Mille Lire di Roma, quindi una settimana completa. L'11 ottobre sarà in prima a Conegliano, c'è già stata un'anteprima a Vittorio Veneto, eccetera, ed è come si dice, fischiato, chiamato, no? Ed è Eva Braun, L'altra metà del fuoco. È una cosa un po' strana, no? Che è avvenuta così. Un'attrice di Vittorio Veneto, un'attrice professionista, Antea Magaldi, mi telefonò in luglio e mi dice: senti Alessandro, potresti scrivermi qualcosa su Eva Braun? Io ho fatto i salti alti sulla sedia, ho detto, ma lascia star, se vuoi ti scriverò qualcosa su Claretta Petacci, che conosco molto di più, non la conosco bene. E intanto che dicevo, Braun non la conosco bene, mi è arrivata quella curiosità che è classica degli scrittori, e ho detto, bah, aspetta un attimo. E per 4 mesi ho vissuto con Eva Braun, Adolf Hitler e tutta la combricola nel bunker di Berlino. Nell'ultimo periodo. E ho descritto in questo lavoro l'ultima ora di Eva Braun. Comincia così la pièce. Eva Braun esce con una pistola, una P38, esce da una stanza, entra in palcoscenico e dice che ha ucciso Adolfo, perché ha preso il cianuro, ma siccome tremava come un bambino lo ha aiutato a sparare. In quel momento entra Antonia Pozzi, una diciamo, una suicida, una poetessa suicida milanese, suicida nel 38, la quale dice: senti cara, io sono Antonia Pozzi, vengo dal giardino dei suicidi e il signore del giardino dei suicidi mi ha mandato ad assisterti nella tua ultima ora. E lì comincia un intreccio bellissimo, che di bello, eccezionale, e ha molto molto molto incontrato questa storia, sì, perché è una cosa al di fuori. Io certo, non faccio nessun, è assolutamente storica, nel senso che tutti i passaggi che io ho citato sono storici, però io ho visto, connessione, sì, io ho visto solo una donna innamorata e ho cercato di capire attraverso un'altra donna perché fossi innamorata di quel bel rampone. Ah sì, perché veramente... Ma mi dica, come si chiama la vostra compagnia? No, io non ho una compagnia. Ah. Questa Antea Magaldi è un'attrice professionista che fa Eva Braun, e la Carlotta Augioni è un'altra attrice professionista di Milano che fa Antonia Pozzi. Ah, e fanno compagnia per i fatti loro, io sono solo l'autore. Sì, sì, sì, sì. Gli unici due personaggi sono questi? Gli unici due personaggi sono. Due personaggi solo, deve essere... Ecco, diciamo che la mia produzione teatrale ultimamente si è proprio sviluppata su pochi personaggi. Ho fatto I due centimetri più alto del re, sì, che era appunto, quindi qui è naturalmente un argomento di casa, dove sì, c'è... un argomento di casa che è dedicato a mio nonno, l'ho fatto, sì, come oltre che come romanzo, diciamo come saggio più che come romanzo, e l'ho fatto come monologo. E questo monologo ha incontrato, è stato al Castello di Serravalle, ha vinto un primo premio nazionale, è andato avanti abbastanza, cioè mi ha dato alcune soddisfazioni. Me ne sta dando di più Eva Braun, non so perché, e sarà perché è l'ultimo fascino del male, naturalmente. Del male. Sì, infatti, il sottotitolo è La donna e l'amante che scoprì il male. Però, la seduzione del seduzione, male. Non so, ecco. Ma deve essere molto interessante. Decisamente. Sì, certo. Ecco, diciamo che i due centimetri li ho giocato sulle corde del sentimento molto di più, tanto è vero che finiscono come finisce anche il romanzo, così finisce il monologo, con un fatto completamente vero, cioè mio nonno Alessandro Tandura era a Mogadiscio e dopo 3 anni di Somalia era riuscito a farsi raggiungere dalla famiglia, mia nonna, mia mamma, mia zia Carla, non mio zio Luigino, perché era all'Annunziatella di Napoli. Napoli. No. Quindi arrivano, lui era allora maggiore e comandava il battaglione Benadir. Un inciso, nel scrivere a sua moglie, cioè a mia nonna, che chiamava Emetta mia adorata, era Emma lei, no? Sì, e sì, lui sì, la chiamava Emetta mia adorata, sempre cominciava così, tutte le lettere che io ho trovato cominciavano così. Allora gli annunciava un anno prima del 37 che era che gli avevano dato il comando del battaglione Benadir, e scriveva: ne sono molto contento, Emetta mia adorata, perché è un battaglione arabo somalo, così potrò stare davanti. È una cosa bestiale. Così potrò stare davanti perché degli arabi somali si fidava degli italiani, delle truppe italiane non molto. Comunque no, dicevo, come finisce questo personaggio che si butta giù col paracadute con una cosa che non conosceva, non sapeva che cos'era. L'ha buttato giù da un pomiglio, da un Savoia pomiglio. È stato 3 mesi a fare lo spionaggio a Vittorio Veneto, sì, no? E informava con i colombi viaggiatori la 8ª armata sul Piave. Dupont, il colonnello capo di Stato Maggiore, ha scritto che deve ascriversi ad Alessandro Tandura il fatto che quando l'8ª armata sferrò l'ultimo assalto sul Piave fosse perfettamente a conoscenza di chi aveva davanti, perché lui trasmetteva tramite i piccioni viaggiatori tutte le Ma proprio vera sta roba dei piccioni viaggiatori, sul col del Pel, sul Bisentin, li calavano, li buttavano giù coi paracadutini nelle gabbiette. Incredibile. Il nonno, insieme a altri che aveva racimolato, andava a prenderli. Mia nonna e mia zia portavano le notizie da Vittorio Veneto. Quindi staffette. E quindi aveva insegnato a guardare le mostrine, perché se vedeva le mostrine loro risalivano al reparto che era presente. E così via discorrendo. Che interessante, veramente affascinante, proprio veramente. Dopodiché viene continua la sua carriera, però non aveva il diploma e quindi non poteva entrare in servizio permanente effettivo. Cosa fece? Fece il diploma di maestro insieme a un giornalista del Gazzettino, suo carissimo amico, che l'hanno fatto. E tanto è vero che questo suo carissimo amico gli diceva sempre: ma come mai tu hai preso tutti i 7 e io che ti ho passato il compito un 6? E lui gli rispondeva sempre: bisogna saper copiarsi, no, caro. Era Enrico Bociner, il giornalista carissimo amico. Che simpatico. Ecco, allora, e fra l'altro una delle riflessioni che faceva mia nonna era questa: non riesco a capire, e le diceva Emma, come mai che per andare su con l'aereo e farmi buttare giù, e ero tenente, ero ufficiale, non serviva il diploma, no? Invece adesso serve il diploma per stare là, e mi voglio domandare al re se l'ha il diploma. Questa è una sua curiosità. Dopodiché è andato in Libia, perché ha fatto tutta la campagna di Libia, poi è andato all'ottavo reggimento alpini ancora, e poi è partito per la Somalia. E dopo 3 anni, ecco che volevo arrivare alla conclusione momento, di quella, esatto, ricongiungimento. Ricongiungono, lui gli aveva scritto l'ultima lettera dicendo: e metà mia dorata, ricordati di portare la salvia e il rosmarino. E lo smarino. È vero che mamma non così, sì. E lo smarino, perché qui non se ne trova. No, cioè, boh. E voleva anche le copie ultime del Gazzettino. Bene, arrivano a Mogadiscio, sul bastimento, eccetera. Mogadiscio, lui aveva fatto imbandire una tavola con tutto il battaglione Benadir schierato, e per accogliere la moglie e le due figlie, perché come dicevo Nino era la nunziatella a Napoli. Arriva, c'è un molo lunghissimo che io ho visto nel 68 quando sono andato a prendere le ceneri di mio nonno, l'ho potuto portarle in Italia, e c'è un molo, c'era allora e c'era nel 68, c'è un molo proprio davanti a questo hotel, a questa cosa qua. Lui va incontro, loro sbarcano, arrivano, così gli va incontro, va sempre più piano, va sempre più sera, l'abbraccia e muore. Allora, muore sul colpo. Proprio attendeva dall'attesa, tante cose. Sì, certo. Sì, poi con cause, era giovane, mi ha detto, vero? Sì, eravamo nel 37, quindi lui è del 95. 5, 15, 96, 20, sì. 42, 43 anni. Sì, sì, sì, sì. E il figlio poi avrà la tragica sorte che a 24 anni morirà come partigiano. Mamma mia, è stata una storia veramente sono state delle vite particolari. Io non ho conosciuto loro, però ho vissuto finché è vissuta mia nonna, con i racconti della nonna. Esatto. Certo. Racconti, esatto. Adesso le racconto io qualcosa. Faccio ascoltare una canzone. Allora, la terza canzone in programma è Donna Felicità, cantata dai Nuovi Angeli. Accompagneremo noi ragazzi a cercare Eccoci di nuovo in studio e stavo chiedendo proprio al signor Valenti di questa rappresentazione Eva Braun, quando la rifaranno e quando l'hanno fatta la prima volta. Mi stava raccontando che l'hanno fatta il 3 marzo, vero? Il primo marzo l'abbiamo fatta, ecco, a Vittorio Veneto, in un ristorante l'abbiamo fatta, il maestro cuciniere, in una rassegna che si chiamava In Salotto, che era nata proprio attorno ad Eva Braun, con 5 rappresentazioni. Sì. E poi l'abbiamo fatta per il liceo Flaminio, ci ha invitato il liceo Flaminio e l'abbiamo rifatta lì. Poi abbiamo interrotto, anche perché adesso è in pubblicazione il testo, sì, e quindi dobbiamo un attimo... Sì, vedere un po' di organizzare. E quindi adesso, cioè, fino a ottobre basta, insomma. Fino a ottobre, no, in settembre è stata inserita nel cartellone dell'estate romana e sarà a Viterbo, ma per una serata sola. Mentre dopo andrà a Roma per 5 serate. Mamma mia, 5 serate. Deve essere stupendo, deve essere. Vabbè, allora continuiamo il nostro discorso. Sì. Scusi. Ecco, dicevo dei 2 centimetri più alto il re, sì, e ricordavamo adesso un attimo velocemente che quando l'abbiamo dato la prima nel 2006 al castello di Serravalle, proprio nel finale, quando loro sbarcano dalla cosa e stanno andando a abbracciarlo, è venuto giù il diluvio universale, no? E eravamo all'aperto, no? Nel castello non si è mosso nessuno. Pensa un po' quanto interessante era fino alla fine, con il coinvolgimento molto forte di questa vicenda, diciamo, sì, così. È che non mancano, appunto, non mancano le reazioni degli spettatori quando ci sono cose valide da offrire. Il problema è il deserto culturale che si è provocato. Diciamo che il teatro, rispetto forse ad altre forme di spettacolo o altre forme di convivenza culturale, ha le 7 proverbiali, 7 vite. Straordinario, sì, sì. Perché dal 2009 gli spettatori di teatro, quelli che hanno staccato biglietti, sono stati di più degli spettatori di campi di calcio. Ecco, esattamente, questa è una notizia. Questa è una bella notizia, sì, però è una notizia eccezionale. Un infame di cultura che naturalmente bisogna che trovi qualcuno. La marca poi in questo è veramente al di sopra di ogni aspettativa, perché ha delle compagnie amatoriali che sono così brave che io che seguo teatro ormai posso dire da quasi 50 anni, no? Alle volte mi trovo in difficoltà nel distinguere una professionale oggi da una amatoriale. In più, le amatoriali riescono ancora oggi a far vedere il vero teatro, cioè il teatro con 15-16 attori in scena. I professionisti non possono più farlo. Perché? Perché i finanziamenti non arrivano a finanziare. Sono stati tagliati drasticamente. E allora cominciano a fare monologhi, duetti, al massimo le trovo una commedia con 4. Diciamo invece che la marca si salva, basta vedere. Adesso poi fra poco avremo teatro in villa, ora che fa il giro del mondo, Gigi Mardegan, poi ci sarà il teatro delle Lune di Montebellune, poi c'è il teatro, no? Poi ci sarà sempre a Vittorio Veneto il festival di Serravalle, cioè al castello, quello dove dicevo che è stato fatto i 2 centimetri più alti. Quindi la marca da questo punto di vista non molla. È peccato sentirmi dire, come proprio mi sono sentito dire alcuni giorni fa da Tony Sartor, che è il regista da 3 milioni, una compagnia di Conegliano, che dice: ma io faccio il giro dei comuni, non si scuce più una lira. Nonostante questo, dice, no, noi abbiamo messo metteremo in scena il ventaglio di Goldoni, sì, non loro come compagnia, ma come laboratorio della compagnia. Cioè, dico, le compagnie oggi riescono addirittura a fare scuola, quella che doveva fare il comune. Come la FITA, per esempio, Alberto Moscatelli, che è un amico mio, che è presidente, molto bravo, e con la sua compagnia che sta facendo molto bene, oltretutto, Teatro Roncade. Io ho conosciuto Zino Boccuzzi, sì, è stato... sono figure storiche. Abbiamo avuto anche qui come ospite Paolo Trevisi. Paolo Trevisi. Altro sì, che sì, tiene alto ormai l'onore della frivolità, che è una cosa che sembra. Ma comunque voglio dire questo, no? Che tutti sono, a mio avviso, sono bravi a fare i bravi quando ci sono i soldi. Anche questo, in politica, purtroppo è vero, anche sì. In politica, allora certo. Tutti si riempiono la bocca senza fare cose, ma si riempiono la bocca di questo e quell'altro quando ci sono i soldi. Ah, sì. Nel momento in cui i soldi mancano, che è il momento di vedere quello se una persona va certo. O meno, persi. Non se ne parla. È proprio così. Insomma, Dio denaro è il più concordare. Venerato di tutti qua. Sì. Ma, insomma, anche se. Sì, e dopo quando tenti di dire che al posto della democrazia ti aspetteresti un'estocrazia, ti dicono: ma te sei fuori dal mondo. No, è proprio quello. È l'indice proprio dei tempi, diciamo. Ecco, allora, tante volte tempi. Quando si vedono, si osservano, fra l'altro sono anche consigliere comunale. Che bello. Non vi dico, cioè non sono per un partito, abbiamo fatto un partito, un'associazione per noi, così, cosa che si chiama? Un po' di amici, e siamo riusciti a entrare. Naturalmente, appena entrato, mi sono subito dissociato. Perché non è fatta per me. Io ho fatto il direttore generale del comune. Quindi. E per me un contratto poteva essere fatto anche sulla parola, non occorreva scriverlo. Altri tempi. No? Ah, qua la parola non vale più niente. È proprio dalla così. Sera alla mattina, dorso e palmo della mano. Per no, cui... è proprio un segno del Quindi tempo. Non ha un assessorato lei? Non ha preso. Io sono nella commissione cultura, ma sono anche nella commissione per il Da Ponte, ma. Proprio lì dove riesco a dare una mano per esperienza mia personale. Perché personale anche perché chiaramente altrimenti sì. Poi ci sono questi veti incrociati di solito. Sì, poi ci sono delle cose che non è trasmissione assolutamente. Non è trasmissibile. E allora, diciamo. Siccome questo mi dà tristezza e malinconia, mi rifugio nel teatro. Oltre ai 2 centimetri, oltre a cosa, ho fatto anche un libro di poesie da Berta Maddalena, ho fatto Luca Rebecca, ho pubblicato Luca. Ce l'ha qui? Che sono 17 commedie di 17 battute con 17 parole di commento. Ce l'ha qui? E tutto perché? Un 17? Haiku teatrale. E perché? Tutto per 17. Allora, dovete sapere che il 17 aprile del 1971, 71 sì, vertibile, sì. Tanto per chi ama il gioco del lotto, io ho avuto un incidente. Ero tenente degli alpini e ho avuto insieme a un tenente dell'aeronautica un incidente. È successo così che io avevo 24 ore di vita nella cartella clinica. Allora, e per dire che il teatro mette sempre la sua pezza, quando i carabinieri hanno telefonato a mia mamma, no, e hanno detto io avevo 24 ore di vita, mentre il collega se l'era cavata abbastanza bene. I carabinieri hanno telefonato a mia mamma dicendo: guardi che suo figlio ha avuto un incidente così, comunque guardi, non si è fatto granché, è il tenente degli alpini che sta morendo. A mia mamma sono venuti, perché sapeva che ero in giro con un collega dell'aeronautica, no? E quindi vabbè, il danno lo scorre, sì. E fra l'altro, altro episodio che è bello così ricordare: quando ero in ospedale a Conegliano, ho fatto di ospedale quasi 2 anni Conegliano, Padova, Bologna. Insomma, vabbè. Comunque 24 ore di vita non è vero, perché oggi ho 68 anni, 67 anni. È qui presente, vivo a raccontarla. Comunque il comando del 7° Alpini mi aveva mandato ad assistermi a Conegliano 2 alpini, fra cui un caporal maggiore di Tiene, no? E a un certo momento viene dentro un medico, adesso non ricordo bene, che mi dice: ah, tenente, così lei è caduto in una cordata? Io guardo e dico: come è caduto in una cordata? Ho fatto un incidente a Spresiano. Ma no, il suo alpino mi dice che lei è caduto sull'Adamello in una... Ma no, è vero, prendo allora questo caporal maggiore e dico: ma cosa stai dicendo tu in giro? E lui guardando mi dice: non vorrà mia che dica che un tenente dell'alpino si è sbattuto sopra un platano, eh? Il senso del corpo. Io le stavo chiedendo una cosa: se per caso ha con lei qualche pezzetto di anche queste commedie, 17 battute, non ha qualcosa? No, a dire il vero non ho portato. Ho portato invece solo sì. Non è ancora un libro, è il libro su cui sto lavorando e che è su Luigino Tandura, cioè suo zio. Su mio zio. Ed è sintomatico appunto che lui mi faccia presente in una fantomatica lettera iniziale che sono 70 anni, che compie 70 anni da morto e che nessuno, tolti gli alpini, lui dice tolti gli alpini e i familiari, se ne ricordi, neanche i partigiani, che tutto sommato lui era partigiano. E dico uno che, cito così velocemente, leggo proprio da qua una carriera, allora nel 37 allievo della scuola militare di Milano, nel 38 allievo della scuola militare di Napoli, quindi è il collegio militare dell'Annunziatella, no? Nel 41 va come allievo ufficiale, nel 42 è al 7° reggimento alpini e sa che la Giulia, il 6° reggimento, la Tridentina, sta andando in Russia, chiede il trasferimento per andare in Russia. Sì. E si fa tutta la campagna di Russia. Con l'armio. Sì. Beh, facciamo così, prima ci ascoltiamo una canzone e poi leggiamo magari quel pezzetto. Sì, d'accordo. Va bene? Sì. Allora, la quarta canzone in programma è cantata da Claudio Villa, Non pensare a me. Continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi, c'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. Piangerò, ma o bene o male tu vedrai che o bene o male mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. E rientriamo in studio con la storia affascinante del nostro amico Alessandro. Eccolo. Ecco, allora dicevo, sto lavorando a questo libro su Luigino Tandura, che fra l'altro quando riceve, apro un inciso, quando riceve la notizia della morte del papà da parte del colonnello comandante la scuola, il collegio militare di Milano, scrive a sua mamma, cito solo una frase che mi... Certo. Tutte le mie lacrime sulla spoglia dell'adorato papà, nell'angoscia del momento, aggravata dal saperti in terra tanto lontana. Sono spiritualmente vicino a infonderti animo che devi avere forte per me e per noi. Ti abbraccio commosso, Nino. Cioè, una prosa aulica, sì. Come, sì, si sì, come si usava allora. Tra l'altro, questo che scrive queste cose qua, io salto un po' di palo in frasca, sì, ma resto sull'argomento, certo, sul personaggio. Certo. Questa qua, quando torna dalla Russia, dopo essersi fatto tutta la Russia, riesce a rientrare con l'ultima tradotta, che viene accolta al Brennero da tutti i gerarchi fascisti, i quali urlano, sì, dicono, no, leoni della Russia, ruggite. E lui è quel personaggio che è stato ripreso in diversi film, che abbassa il finestrino e fa beh, è lui. E si è preso, sì, 40 giorni di galera. Poveretto. No. Che poi sono diventati 20 perché mia madre poi è partita da Vittorio. Questo dice tutto del personaggio. Questo dice tutto del personaggio. Ma era una donna in gamba, era una donna energica. Era molto, più di tutti mia nonna. Ah. Era il generale di famiglia. Il generale di famiglia era lei, non erano loro, anche se portavano le stellette. Certo, certo. Chi comandava era lei. Mia madre, no, era un po' più dimessa, però da giovane aveva... parecchia, dopo si è un po' calmata, ma da giovane, sì, tanto è vero, altro episodio, che mio nonno l'aveva promessa a un personaggio, ah, a un personaggio molto importante, che era il viceré Graziani. Solo che la Vittoria, cioè mia mamma, che aveva 17 anni e che a cui piaceva un tenente degli alpini che era in quel momento distante, no? Ha detto: a cosa? A 60 e passa anni, papà, ma neanche a pari idea. E così è andato tutto a remengo, ma se n'era parlato. Però, per dire, usava una volta che bastava non trovare dall'altra parte qualcuno, sì, di questa, dopo, questa quando natura. Per esempio anche Luigino non era uno stinco di santo. Quando faceva il liceo, lui scappicchiava da casa e andava a giocare al collegio Ricci, che aveva un bel, a Vittorio Veneto, che aveva un bel bar, andava a giocare a biliardo. Oh, e la nonna si precipitava, mia nonna, cioè sua mamma, si precipitava a prenderlo perché doveva assolutamente studiare. E così è maturata l'idea che un collegio militare non gli avrebbe fatto male. E la disputa con il padre era questo, no? Che mio nonno gli diceva: tu vai al collegio, tu vai alla scuola militare di Milano. E Lino rispondeva: papà, si chiama collegio militare, tu mi vuoi cacciare in collegio, è una scuola, punto e basta. E qui andava, era la definizione del corso. E quello che non si capisce, lui, Lino adorava suo padre, e suo padre non era molto tenero, perché era un ufficiale, era militare poi fatto, sì, un po' duro e così, no? E pensare che secondo me lui ha fatto tutto quello che ha fatto Nino per imitare il padre. Perché chi glielo faceva fare, rientrato dalla Russia, poteva stare tranquillo. Perché poteva stare tranquillo? Perché era figlio di medaglia d'oro e non aveva l'obbligo a fare né leva né niente. No, parte, va in consiglio, sta un po' di giorni a casa con sua sorella, cioè con mia mamma, poi parte e va in consiglio. Mia madre, fra l'altro, nel frattempo viene presa da suoi amici fascisti, i quali la cacciano in galera a Treviso, a Santa Bona, perché aveva nascosto Nino. Ah, oh, mamma mia. No? Beh, pazzesco. Allora, raccontata a mia madre, dice: sa tu, vede venire dentro, dove compagni di scuola, chi mi dice, Vittoria, dobbiamo incarcerarti. A me! Ma sì, era a scuola con me! No? È come fa, come alle volte... Sì, come la cara dica, lui subiva molto il fascino del padre. Secondo me non avrebbe fatto altro, perché vi dicono, adesso vi leggo la motivazione della medaglia d'oro, che è tutta un programma di, se riesco a leggerla qua, no. Oh sì, vediamo. Sempre di Nino, naturalmente. Sì, di Nino, parla, sì, quello sì, del sì. Nonno è un po' sì, così, ma questa è particolare. Allora, giovane combattente della lotta di liberazione, animato per suo sentimento e per tradizione familiare da vivo amore di patria, si distingueva ripetutamente per fermo coraggio, per slancio generoso. Ancora febbricitante per ferite riportate in combattimento, chiedeva di partecipare a un'ardita impresa. Riuscita l'azione, si attardava coscientemente per coprire la ritirata dei suoi. Ferito a una gamba, continuava a combattere e, sollecitato a porsi in salvo, rifiutava di farlo. Rimasto solo, ferito un secondo e una terza volta, teneva eroicamente il posto da lui scelto sino a che si abbatteva esanime sull'arma ormai vuota. Un ragazzo di 23 anni. Esattamente, sono di quegli esempi straordinari. La cosa eccezionale è la testimonianza del parroco di Orsaria, no? Che fu informato che c'era un partigiano morto proprio lì sulla strada, e questo si meravigliava, perché era stato ucciso in uno scontro con i tedeschi, si meravigliava che i tedeschi l'avessero preso 2 chilometri addentro e invece di sparargli, di impiccarlo, di uncinarlo, come era d'uso, l'hanno preso a braccia e l'hanno trasportato fino sul ciglio della strada, per poi avvisare il parroco che c'era un codice d'onore, diciamo, una resa, l'onore delle armi. E la testimonianza di questo parroco a mia madre era che questo ufficiale tedesco era un maggiore di cui lui conosceva il nome, ma non lo so, che aveva 3 figli. Probabilmente storie che non si penserebbe di poter, esatto, sono anche loro hanno un cuore straordinario, appunto. Ecco, allora adesso sto lavorando a questo qua e sto lavorando, cioè mi piacerebbe cominciare a lavorare anche su 2 banditesse. Ah. Allora, banditesse? Sì, sì. Thelma Louise. Allora, il brigantaggio. Porca miseria. Il brigantaggio mi ha affascinato. Ho chiesto all'ufficio storico dell'esercito. Ah sì, apro una parentesi. Tutte le notizie che si riescono a avere vengono o dall'esercito o dalla chiesa. Basta, non c'è altro. Tutte le biblioteche che teniamo non servono a niente. Perché, faccio un esempio, su mio zio io sono riuscito ad avere qualcosa, non dai partigiani, dall'esercito e dalla chiesa. Certo, perché loro scrivono tutto. Esattamente. No? E riportano tutto. Allora adesso sono entrato in contatto tramite un amico così con l'ufficio storico dell'esercito e mi sono appassionato leggendo un articolo al brigantaggio che non conoscevo, più di come lo si conosca certo. Al liceo. Certo. Così. Meridionale, sì, quando i piemontesi sono arrivati, e ho scoperto su questa relazione del Stato Maggiore Esercito delle cose straordinarie di donne che partecipavano a questo brigantaggio, che poi è tutto da vedere se era banditismo o patriottismo. Ecco, allora sto lavorando anche a questo, però questo deve essere particolarmente interessante. Ecco, ma questo ci sto lavorando solo per il teatro. Okay. Ah, quindi lei sì, farebbe una avrei l'intenzione di farlo con le stesse 2 attrici di Eva Braun, mettendo a confronto 2 diversi modi di essere banditesse. Bello, una abbastanza feroce, sì. No? E una che si fa trascinare per amore. Cioè, fra l'altro, il capo di questa banda, figurati, era un ex garibaldino. Deluso da Garibaldi e dai piemontesi, aveva formato questa banda di cui questa ragazza di Caserta si innamora. Una pagina di storia non convenzionale. Ecco, che fra l'altro non si trova in nessun posto se non, come dicevo, negli archivi dell'esercito. Sì. Ecco le 2 cose a cui adesso sto lavorando. Allora, scusa, manca poco. No, sì. Qualche minuto, magari ci sentiamo l'ultima canzone, allora, e poi raccogliamo le idee così per la prossima. Facciamo un breve riassunto di quello che è stato. Esattamente. Che è stata una cosa stupenda, veramente. Ma straordinaria. Ecco, allora, siamo ancora in tema. Primavera cantata da Marina Rei. Di nuovo in studio per una sintesi finale per i saluti con il nostro amico Alessandro. Eccoci. Bene, allora possiamo finire dicendo che, essendo vissuto in una famiglia, diciamo così, di eroi, di gente che si è data da fare, devo dire che io non ho calcato le cose, perché vi racconto questo episodio finale. Quando ero a Belluno, tenente degli alpini, ero nella caserma di mio nonno, e un giorno ero un po' in giro, ero ufficiale di servizio in caserma, così mi entrò sul mio studio dove ero con un alpino, ascoltavamo le partite di calcio, e dentro il capitano Zambelli, quale mi dice: tenente, cosa fa vestito così? Ero tutto. E io, dopo un po' così, un po' che avevo bevuto, un po' così, ho detto: ah, capitano, sono nella caserma di mio nonno. Mi ha cacciato 11 giorni di arresti per la risposta. Dopo la sera, con il colonnello Benucci, che comandava il 7° reggimento alpini, ci siamo spiegati. Ho detto così. Allora Benucci lo chiama e fa: Zambelli, guarda che è vero quel che ti ha dita. Tale. Questo facciamo del millantato credito. È millantato, cioè, credito. queste sono cose. O come quando uscito con la sommeggiata con i muli, ho fatto una figura da chiodi, perché inseguito dal mulo Girino su per un coro mi sono arrampicato su un albero con tutti gli alpini che ridevano di me e io ero il comandante. Sono sceso e ho detto: se qualcuno dice qualcosa in compagnia stasera, ha finito di avere permessi per tutta la naia. Silenzio di tomba fino alla mattina, quando sono andato a prendere il caffè e il tenente Dupadi, mio carissimo amico, mi ha detto: com'è stata col muro? Queste sono cose da alpini, diciamo. Sì, alpini, sì. Un corpo straordinario. E su questo non possiamo fare altro che ringraziare a malincuore, perché insomma il tempo è sempre troppo presto. Comunque, io ringrazio Antonio e Gesi di questa bella conversazione, di questi bei minuti passati assieme. E come abbiamo detto all'inizio, mi farà piacere tornare a trovare. Bravo, così questa mi piace. È la parola che dovevamo sentire. Bene, allora, grazie. Caro Antonio, come sempre ti ringrazio. Che abbiamo passato un'ora in compagnia molto con i nostri ascoltatori, con il nostro e col nostro ospite, e c'è anche la signora Lia De Martin che noi salutiamo, naturalmente salutiamo, e qui seduta con la signora Valenti. Bene, allora, come sempre, cosa devo dire? Affettuosamente dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.